Benvenute, bentornate a Cabaret Voltaire, bentornate in Exalge. Grazie. Questi sono i vostri microfoni. Grazie, infatti. Però forse darei il primo microfono a Rore. Eccoci. Allora, questa sera ospiti di Cabaret Voltaire sono Lore di T, la mia prima esperienza con un gruppo. La prima volta non si scorda non mai. Non si scorda mai. Ma sono molto felice perché sono molto fan, come Lore sa. Tanto che mi ascolto i vostri pezzi scaricati da Google, cioè dal drive di Google, quelli ancora non usciti. Esatto. Sì, più è pirata meglio è, in realtà. Esatto. Va bene, va bene. Allora, forse vi chiederei prima di tutto di presentarvi, no? Abbiamo con noi Lorenzo. Ah, ciao, ciao, ciao, ciao amore. Che... sì, allora, Gioele Lorenzo potrà venire a fare un commento alla fine della radio in quanto privilegiata per età, per piccolezza. E, no, dicevo appunto, questa sera non siete tutti qui, c'è una mancanza, Agnese non c'è. Sì, e mancanza grossa. Mancanza grossa. Piccolina ma grossa. Ma potente, ha una voce, sì, e un modo di suonare la chitarra che è ipnotizzante. E, però niente, ci sono Lorenzo e poi, La Lorenzo. Poi c'è la Yuri, che è il nostro... Forse il microfono è spento, penso. Era spento il microfono. Ci sta vero. Anni a capire cablaggi, cardioidi, e poi alla fine... Appena laureato al conservatorio. Ci ha niente. Fregato un tasto on off. Vabbè. Comunque dicevamo, io Yuri. Io la Gabriele. Ah, la Gabriele. E la Sebastian. Ecco, e volete dirci cosa suonate? Che parte avete in questo gruppo? Vado io? Sì. Io suono il basso. Dillo di tutti. Ah, vai, intro. Allora, io la Sebastian suono il basso. Seb. Poi abbiamo Lorenzo, che è cantante principale e chitarrista. Yuri Kusmai, cajonista, pianista, corista, improvvisatore. Sì, ma faccio tutto. Basta, ma non faccio. Fai tutto. Gabriele alla batteria. La batteria con e poi manca Leo, manca anche Leo, manca, ma forse ci raggiunge Leo, per Leo, tempo. Leo Bonelli, forse. Speriamo, dai. Leo, che è pianista. Pianista, shakerandista, esatto. Shakerinista, sì, sì. Possiamo chiamarle maracas? No, cos'è che suona lui delle volte? Lui suona proprio gli shakerini. Ah, si chiamano shakerini. Shaker. Ma alla fine c'ha... Di solito sono in due. Ma che ha creato lui? È uno strumento che ha inventato lui? No, sì. Sono quelli che costano meno nei negozi musicali. Allora, no, quando esci in però coda, devo ammettere Leo che... suona quella roba lì. Devo ammettere che una volta ha creato una spazzola di bambù che poi non ho mai utilizzato perché... però si cimenta in queste sì devo dire. Ottimo. Allora, forse come prima domanda anche per ci siamo dimenticati Agnese. No, l'ho detto prima. Agnese chitarra, la chitarra, voce. E ok. Sì. Chissà se ci sta sentendo. Magica. Le stanno fischiando le orecchie. Io non si può. Allora, Agnese non c'è perché nella vita fa esatto, fa anche poi c'è il direttore fotografa. Artistico che è Pino. Esatto, Pino. Un direttore artistico, grafico e musa. E oltretutto, ora ci racconterai, Lore, credo ispiratore del tuo nome, cioè del nome del gruppo. Perché vorrei dire ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che il gruppo di Lore di T ha avuto un'evoluzione, cioè non siete partiti con la formazione che avete adesso, giusto? Giusto. Lore, mi confermi? Siamo partiti io e Pino. Allora, che Pino Andrea Lodetti in arte, dire. Andrea in Lodetti. Io è la prima volta che scopro come si chiama Pino. Posso dire Andrea Lodetti in Tonelli, io perché c'è un doppio. Non capivo mai a Lodetti chi fosse. Pensavo che sia una ragazza. No, no, infatti lui si nasconde bene, ecco. Si fa capire quanto siamo organizzati. E lui inizialmente metteva le basi sul computer, basi che facevamo assieme di elettronica. Io suonavo la chitarra e cantavo sopra, quindi era una roba che faceva molto ridere, perché le serate che abbiamo suonato la gente ci guardava come se fossimo degli alieni, degli scappati di casa venuti a sfondare le casse, perché tutti i volumi erano sballati e quindi partivano dei colpi incredibili. Quindi grande esperienza. Poi Pino regge bene il palco, diventa tutto bianco, si azzera la circolazione del sangue e va leggermente sulla destra, così con la testa, come Papa Wojtyla. Cerca di portare il sangue. Sì, non sai se sta avendo un infarto o è vivo. E poi vabbè, c'è stato l'incontro magico con Leo, amico di amici di Pino, che suona il piano, che quindi siete partiti voi tre, musicista incredibile. Siamo partiti noi tre, in realtà noi due e poi io e Leo, perché Pino si è sentito di lasciare le sue a quel punto ha capito che ha detto vabbè, a sto punto ma mi faccio la parte. Lori DT viene da, cioè, non allora no, è... se il posso, nome dici, se po- ecco, vai, se po- Yuri, dici, dici. Guarda, non per scoraggiare questa cosa, però è, credo che sia più fattibile capire un giorno come hanno portato i massi di pesanti tonnellate per costruire piramidi, piuttosto che capire da cosa l'Ore deriva l'Ore di T. Sì, sì, no, esatto. Anche perché tipo, tutte le volte racconto una storia diversa, quindi... Un'altra cosa. Tutte queste storie in realtà le stiamo sentendo tutti in anteprima, perché ogni volta capire che cosa c'è nella vita di Lore è un po', è un po' criptico, diciamo. Sì, sì, sì. No, non, io pensavo fosse se vuoi una ti racconto un'altra storia. Lore, Lodetti, Lorenzo e Lodetti. Bella, questa cosa me l'hanno io già detta così. Altri. E comunque vuol dire che hai un cervello che ragiona, cioè che visualizza le lettere. Sì. Perché DT, Lodetti, cioè, non è male, Non è male. Io pensavo fosse me l'hanno già quello. Detto. Comunque. Invece no. Potrebbe essere tipo di tutti. Di tutti. Lore di tutti. Lore di tutti. Non ci avevo sì. pensato anche. O da Trento, magari ho delle origini. Hai di... delle origini. Chi lo sa? Sembriamo quando all'eredità, no. Quando all'eredità hanno scritto la parola, sì. E poi inizia a fare sì, esatto. I soliti ignoti, oppure a dare un'esplicazione alla possibilità. Pure di Tania, la ex corcitiva di. Sì, sì. Di Taranto, pure di Taranto, anche sì, sì. Di Torino. Benissimo, essere da Trani. Lore da Trani. Poi ce ne sono anche tantissime volgari, no, che ci hanno detto che non ripeterò adesso. Non ripeterai? Però se uno si impegna con la fantasia può cogliere delle derivazioni. No, se no pensavo anche che c'entrasse con lo stile, che è un altro mio dilemma. Perché ogni volta che mi dicono, anche quando devo pensare a come presentarvi per la radio, mi chiedevano, ah ma quindi che musica fanno? E io dico sempre, ma un cantautorato italiano misto un po' a rap, un po' simile a Daniele Silvestri, però non so mai come definire questo stile, e quindi ho pensato... No, io lascerei dire a voi. Già che è la domanda che faccio appena iniziamo. Allora, io... Affiliamo le nostre ascoltatrici. Io ho la Yuri. Meravigliose poi, peraltro, qua presenti. Che, scusate la schiena. Fate un ciao. Ciao. A voce però, perché ciao, mi vedo. Sarà... Allora, dal mio punto di vista, e non voglio essere egocentrico, è semplicemente il mio racconto personale. No, no, non è vero. Non è. Voi diciamo che siete molto introversi, quindi mi espongo. Sarà lo spritz e il barista a cui faccio un applauso che magari mi... Grazie, Gio. No, allora quando sono entrato nel gruppo... Sta partendo il pippone. No, faccio breve. Io ormai lo riconosco subito. Allora, quando sono entrato nel gruppo, la linea generale, quindi ci hai preso all'inizio, era un po' comunque tendente all'accompagnamento rap. Ti dico accompagnamento perché suonavo il cajon. Come? Cajon. E quindi diciamo che mi muovevo più o meno su quella linea ritmica lì. Però poi insieme, crescendo il gruppo con nuove persone anche, sono entrati in gioco nuove contaminazioni, nuovi generi. Abbiamo abbracciato anche il mondo africano. Sì? Sì, sì. E... mi fa piacere che vuol dire che lo facciamo proprio bene. Sembra che Capri sia etiope. No, vabbè, diciamo, per il mondo africano intendo, diciamo, il folklore più autentico. Ci ispiriamo un po' a quello in alcuni brani. Non tipo, fammi un esempio di brano. Tipo, vediamo se Lore ha studiato. Tipo, come mi va? Come va? Come mi va? Che bella! Oppure quello che non vuoi. Quello che non vuoi. Oppure quindi parliamo oppure del nuovo EP. Tutto torna. E vedi, ho studiato. Del nuovo EP. Sì, queste sono quelle che anzi devono ancora uscire. Come mi va non è ancora uscita. No, queste le stiamo registrando, faranno parte di un disco di 11 canzoni che stiamo registrando tutti assieme. Siamo in una formazione di 6, appunto. Si chiamerà Entra anche tu nelle forze dell'ordine. Wow. E contiene 11 canzoni. Perché questo titolo? Molto belle. Perché siete voi le forze dell'ordine. Io ho una vita che voglio dare un titolo del genere a un disco, quindi finalmente li dà lui i titoli, quindi come è così il nome, allora, enigmatico lo sanno. Devo dire lo saranno... che il motivo per cui mi sono innamorata di questo gruppo è la poesia anche di Lore. Quindi secondo me i testi e le parole di Lore sono proprio magiche. Più di Daniele Silvestri, mi sento di dire. Wow. Daniele Silvestri, ti ringrazio. State mai ascolterà. DS, Daniele Silvestri. DS. Io sono DT, sono. L'ho detto. Quello dopo. ST. Chissà se qualche anno, tra qualche anno scopriremo che ti chiami tipo Dario Tunti. Dino da cui vero. Non lo so. Magari prima o poi uscirà questa una storia vera tra le tante, uscirà. O forse già è uscita. Ma infatti no, un po' raccontiamo degli aneddoti del gruppo. Secondo me rendono sempre bene l'insight. Sebastian, sei silenzioso nell'angolo. Beh, raccontati della scaletta che abbiamo fatto. Una scaletta di gas. Ah, beh, sì, una cosa incredibile di questo gruppo è che non esiste una scaletta. Cioè, ogni volta, questa è la gag reale. Purtroppo i titoli sono molto semplici, molto efficaci, ma si assomigliano tutti l'uno con l'altro. Quindi ogni volta è: ok, ragazzi, cosa suoniamo? Oggi facciamo la musica importante. E parte la domanda: raga, qual è la musica importante? Tra l'altro la mia citazione viene, cioè quella frase che meglio mi sono ricordata, che volevo citare questa sera, viene da questa canzone che è parte dell'ultimo EP che è uscito quest'anno, no? Il cuore si porta in giro, e la citazione che ho salvato è: solo la vita che mi assorda fa per me, perché mi sembrava che racchiudesse un po' il senso anche del fare musica, di quanto questa cosa possa essere importante per voi. Poi non so se ho interpretato male. No, sì, la assolutamente. Missione del gruppo. Assolutamente. Tra l'altro è una canzone che sento molto, perché parla di noi, parla un po' di Agna, parla un po' di tutti noi, parla un po' di Yuri, parla di Orazio, che è il mio vicino di casa, che è grande fonte di ispirazione. Maestro. Ma questa cosa del maestro fa molto ridere, perché nella mia casa ci abitava prima mio padre, mi diceva: lì ci abita un maestro di musica. In realtà lui non fa il maestro di musica, ha mai fatto il maestro, ha fatto il fonico in vita sua, però lo si chiama il maestro. Però c'è il fatto suo. E quella canzone lì parla molto di quella casa, delle persone che venivano a trovarmi con... appunto Razza, che sta a Niguarda, sì, dove ci sono le cascate. Dove ci sono le cascate? Le cascate di Niguarda. Non so cosa siano. Del Niaguarda. il titolo La musica importante l'ha proprio inventato Razza. Razza? E quindi era una cosa che, insomma, una canzone che parlava un po' di tutti noi. È in effetti un po' a ripensare alle vite di ognuno di noi, è un po' quello il senso che... Sì, a me ha fatto pensare anche come... cioè il motivo anche per cui ho pensato di portarvi in radio è stato che nell'ottica che siete un gruppo giovane che sta crescendo nel contesto milanese, anche vedere come magari da una cosa che è iniziata in modo amatoriale, no? Come un gioco, come una passione, pian piano possa prendere forma e diventare anche un mestiere, no? E come cioè mi chiedevo anche se anche il fare musica cambia, no? Cioè nel momento in cui tu suoni, scrivi, ti diverti con gli amici, con le amiche, lo fai un po' appunto anche come un gioco, e poi se, e quindi magari hai meno filtri, no? E ti lasci più andare, sperimenti, all'inizio magari devi anche formarti come stile, eccetera, cioè avere un po' un'identità, no? E poi a un certo punto, quando fai quello switch, pensi, ma però forse posso anche renderlo un mestiere, cioè come funziona, non so, anche come, se c'è qualcuno che ci ascolta che fa musica, un po' come un insight. Io sono disoccupato, quindi di mestieri non ne voglio. Io non ho mai lavorato, ho sempre fatto, hai sempre fatto sempre il musicista, fatto musicista. No? Però mi chiedo se cambia anche la prospettiva del fare musica, e se magari entra anche più in gioco un assecondare il pubblico, e per cui mi chiedo anche se c'è, non dico un inghippo di committenza, però anche... Ma dici nella scrittura? Proprio anche... Sì, non so se nella scrittura o nella scelta anche di uno stile musicale, no? Cioè penso inserirsi, alla fine devi anche cercare di inserirti in un contesto urbano, nel vostro caso quello milanese, e quindi capire anche come essere una voce che si fa sentire più di altre, o qual è la strada che poi, non so se è un pensiero che avete fatto. In realtà no, abbiamo sempre pensato a suonare, adesso vabbè, Gabri e Sebi si sono uniti da relativamente poco, anche se sono fratelli da una vita, ma è sempre stato molto un portare le canzoni al gruppo, e poi il gruppo le suona, quindi non c'è mai stata una cosa per cui ci diciamo facciamo questa canzone in modo che andiamo in quella direzione lì. Il pensiero che abbiamo fatto è quello di ingrandirci, di fare più una ricerca di sonorità nostre, quindi avere una batteria, un basso è una ricchezza infinita, quindi insomma... No, forse magari ho frainteso la domanda, nel senso che se c'era un'esigenza di conformismo, di per farsi... Sì, non so se, cioè nel senso mi chiedo se c'è stato uno switch nel pensare, ok, forse adesso, come dire, mi concentro a fare musica con un obiettivo, o se è rimasto sempre una cosa che avete fatto, cioè immagino sia sempre una cosa che fate per passione, ma se c'è stato anche a un certo punto un cambio su un intento, no? Guarda, secondo me... Incontrare un pubblico. Sì, no, secondo me è stato sistematico, cioè nel senso che... è come se ci fossimo posti sempre un obiettivo diverso, che però nel momento in cui te lo ponevi rappresentava il massimo dell'importanza, quindi ci ponevamo un obiettivo e poi una volta superato andavamo al prossimo, e ogni obiettivo che ci ponevamo era il massimo da poter raggiungere, quindi diciamo che non era pensato in larga scala ma sistematicamente. Io ho una cosa da dire su questa cosa qui, posso? Certo, Gabri. Un po' di veridicità. Il tema è, secondo me, il tema, io parto sempre con il tema. Però io, per esempio, una cosa molto bella che ho visto in Lore, comunque nel gruppo, che appunto, come diceva Lore, ho conosciuto di recente, è che la sensazione che ho è che in questo gruppo di persone ci sia tanto invece proprio il desiderio di fare le cose per il gusto di farle, mentre... Come hai detto tu, a un certo punto si tende spesso, quando si ha un progetto, a definire un obiettivo, a definire uno schema che comunque fa riferimento a delle necessità economiche, esistenziali, perché comunque siamo tutti semi-trentenni, e quindi chi ha lavoro, chi ha le proprie, insomma, aspirazioni. E invece in questo contesto, cioè, io quando li ho conosciuti ho detto, oh, dei fricchettoni veri, finalmente, delle persone, no, sembra una cosa stupida, però alla fine quando suoni e quando fai, secondo me, tutte le cose che hanno a che vedere con l'arte o comunque quei progetti, c'è tanto questa cosa dell'esposizione e di come comunque ti interfacci con l'ambiente sociale intorno. Invece quello che vedo io del gruppo è che invece c'è tanto il desiderio di fare le cose per il gusto di giocare insieme. Non ci prostituiamo al conformismo, dai. Cioè, mi chiedo se come avete incontrato, cioè un po' penso, magari è una cosa sciocca adesso per la mia inesperienza, però nel momento in cui per esempio devi scegliere dove andare a fare un concerto, no? O scegli uno spazio, scegli un luogo che ti concede questa possibilità, se c'è un divario tra quello che appunto è la vostra identità anche così libera e i loro confini, no? Se invece avete solo incontrato spazi dove avete incontrato invece un ascolto in questo senso. Abbiamo incontrato diversi tipi di spazio. Cioè anche per raccontare un po' l'ambiente musicale, diciamo, milanese. E io sono il più polemico, volete che risponda io, sì, davvero? Sì. guarda, se cioè purtroppo Milano non ha una... Non è accogliente. Ma no, non è tanto che non è accogliente, è che gli spazi che vengono riservati anche, diciamo, dal comune, da chi gestisce questi spazi, sono sempre spazi molto anche demoralizzanti, un po' umilianti, come le stazioni della metro o i parchi dove ti montano lì una presa elettrica e ti dicono suona. Non c'è una vera cultura di musica da strada e non c'è neanche una vera cultura di musica da pub, da bar, perché di solito rompi le palle quando suoni, no? Rompi i coglioni alla signora che sta al primo piano, sicuro. Si è perso, dai, si è perso. E ti fa la denuncia, vabbè, quindi c'è anche tutta questa mentalità qua. Quindi i pochi spazi che ci sono, le venue musicali, diciamo. Tipo? Giusto per dare un insight alle nostre ascoltatrici, tipo, non so, Mare Culturale è una venue importante, ha un sacco di limiti da quel punto di vista lì, ma mi verrebbe da dire anche tutti i circoli Arci, comunque sono dei posti che cercano di spingere la musica nonostante il Covid, nonostante tutti i problemi che hanno avuto in questi anni. Diciamo che noi non ci cerchiamo una data, nel senso che veniamo maggior parte delle volte contattati. Una data grossa che abbiamo invece, che ci siamo cercati, che vogliamo, che suoneremo tutti e sei per la prima volta per live. La prima volta live con anche il nuovo disco. Al Bico eravate tutti e sei, no? Al Bico eravamo in sei, però un'altra formazione ancora, perché c'era Piero. È vero, c'era Piero. Non c'era You. In cinque. Non c'eri tu, c'era Zatti. Salutiamo tutti, Piero, Zatti. Comunque la data grossa e importante che ci siamo organizzati proprio perché volevamo fare un live tutti assieme di questo nuovo disco che stai registrando è il 7 giugno a Loc, collettivo Cashavit. Sono vostri nemici. L'ho visto, no, non so se non sono miei amici, ma ho visto le grafiche di Pino. Hai visto le grafiche di Pino? Stupende. All'ho detto. Ci aprirà il concerto il magnifico e glorioso Filo Spada. Meraviglioso. Siamo contentissimi. Lo salutiamo. Possiamo far sentire dopo in pausa una canzone di Filo. Assolutamente. Per forza. Io sono innamorato di Giuseppe Verdi e Sala Fumatori, però. Giuseppe Verdi. Cavallo di battaglia, direi. C'è stato anche un momento in cui dovevamo fare una cover noi praticamente di... Quindi in realtà riuscite a mantenere la vostra libertà e la vostra identità? Cioè, niente, mi chiedevo se ci fosse appunto noi facciamo la nostra musica indipendentemente dal posto in cui andiamo a suonare e confrontarvi con la realtà milanese in questo caso. Guarda, posso aggiungere una cosa io? Vai, Yuri, aggiungi. Parla male di qualcuno, non sono Yuri. Parla male di qualcuno, Yuri. Anche se non si dice... Cioè, un po' di direbbe. Content, Yuri. Sì, vado, va. Zanio, non c'è anni. Era difficile da capire, però io non sono milanese. Ma dai. Lo so, ascoltatrici. Vabbè. quello che voglio dire è che quando mi sono trasferito a Milano l'ho fatto perché volevo studiare musica qui, infatti ho iniziato il conservatorio, l'ho finito e le idee erano un po' confuse, però nel corso degli anni sicuramente, e anche grazie ad aver conosciuto Lorenzo e gli altri. Come l'hai conosciuto Lorenzo? Ah, fa molto ridere questa cosa. Piccola parentesi, vabbè, era, è stato grazie a Agnese. Agnese l'avevo conosciuta penso tre mesi prima, grazie a un altro amico che fa il conservatorio. E io così bazzicavo in Piazza Leo, suonicchiavo un po' il darbuchino così, no, perché il pianoforte ovviamente non me lo potevo portare in Piazza Leo. Piazza Leo è Piazza Leonardo da Vinci, Città Studi, per chi non avesse capito. E insomma, ho trovato per chi ascolta da Molise. A parte che i molisani la conoscono Piazza Leo. La conoscono, sì, molto, vabbè, meglio. Noi tre molisani sicuramente. E vabbè, e lei loro, perché Agnese poi ha conosciuto Lorenzo, avevano questa esigenza di trovare un prototipo di percussionista e Agnese mi ha chiesto se volevi partecipare. Se volevo partecipare, e da lì è nata tutto. Comunque mi ricollego a quello che ti dicevo. L'ambiente che ho conosciuto qui a Milano non è sicuramente un ambiente solo musicale, ce ne sono tantissimi e diversi, e tutti hanno una visione propria e degli obiettivi propri. Sicuramente io ho rifiutato, anche conoscendo l'ambiente del conservatorio, ho rifiutato una parte di questo ambiente, quello che, come dicevamo prima, tende a conformarsi per questioni di ascolti, questioni economici e tutta una serie di cose. Io invece, Lorenzo e gli altri, come diceva anche Gabri, ho trovato questa esigenza qui. Non è che l'ho trovata, l'ho condivisa, perché in realtà ce l'avevo già, anche prima di partire, la voglia di essere se stessi e di avere una linea che vada al di là del conformismo musicale, ecco, soprattutto qui a Milano, che è forte. Fare una vita che ti assorda, insomma. Esatto, bravissima. No, ci tenevo a specificare questa cosa perché penso che sia anche un tema importante per lo spazio in cui siamo adesso, di Exalge, e di come vuole inserirsi all'interno del contesto urbano e anche forse, credo di poter dire questa cosa, o almeno per come l'ho vissuto io, di essere uno spazio inclusivo in questo senso, no? Quindi di essere aperto ad accogliere chi viene da fuori, lasciare la libertà di esprimersi un po' come si vuole. Almeno per la mia esperienza personale, io sono arrivata qui, ho chiesto di poter fare questo podcast e mi hanno lasciato totale libertà creativa e sono sempre stati anche molto attenti a concedermi quello di cui avevo bisogno, e quindi mi sembra una cosa anche abbastanza rara per un contesto come il nostro, in cui magari invece degli spazi sociali come gli arci o insomma pub, così possiamo chiamarli, di solito invece hanno molti più freni su, cioè non so, non sono mai sempre dei posti molto accoglienti, appunto come diceva anche Lore, quindi mi veniva in mente questa domanda anche per capire voi come musicisti, come... Noi facciamo la stessa cosa che fai tu qua. È venuta un'idea. Esatto. Hai trovato una scrivania. Ci hai messo sopra il computer un microfono. È buona, sei a posto. Noi abbiamo fatto più o meno la stessa cosa. Ecco, con un assist ovviamente fonica, grazie a Coli, perché sennò non sarei qui. Sì. Anche noi con un assist assolutamente fonico, grazie a Piero e il Rogo Studio. Assolutamente. Vogliamo ringraziare Piero e il Rogo Studio. Anche, quindi possiamo anche pubblicizzarlo forse. Forse sì. Faremo parte di un'etichetta che si chiama Arrogo Records. Ho visto. Molto orgogliosi di portare la bandiera di Rogoredo, o no? Ma Rogoredo. E loro come sono? Cioè hanno uno stile particolare per cui avete deciso di associarvi a loro? No, per quello che mi riguarda, mi è piaciuto molto l'idea che aveva Piero del disco E poi a Piero piacciamo molto, piace soprattutto molto Agnese anche. Già. E quindi c'è stata questo bel incontro del tutto casuale, in cui ci ha detto: ragazzi, facciamo un disco qua, entrate nella nostra etichetta, di altri gruppi come voi nella nostra etichetta non ce ne sono, ma tanto sono tutti diversi tra di loro. E quindi è stato un po' così. Poi i due ragazzi qua, Siebi e Gabri, sono membri fondati, siete membri voi, vero? Siete membri di Rogo Records. Sì. E quindi cioè, è sicuramente stato facile inserirvi. Sì, è stato bellissimo. A proposito di EP o album, recentemente è uscito il vostro nuovo EP, appunto, Il cuore si porta in giro. Sì. Che è molto particolare, no? Perché l'avete registrato all'aperto, c'è stato tutto uno studio anche sulla forma. Potete raccontarci? Sì. Cioè, sono curiosa di sapere come siete riusciti a mettervi d'accordo intanto sui brani da scegliere da mettere in questo EP, se c'è stata una filosofia. Perché da quando io li avevo scaricati dal drive ce n'erano altri insieme, sono, no? Cambiati. Sono cambiati, esatto. Infatti io avevo un'aspettativa, volevo sentire. E invece. Come la scaletta, esatto. E poi anche sul, cioè, su tutta l'idea creativa che avete avuto, anche nello spazio che avete scelto, se volete allora, un po' raccontare. Lì ero partito con un'idea io, in realtà, prima di proporre ai ragazzi di registrare un disco, di registrare alcune canzoni, sì. In un bosco vicino a Reggio Emilia, dove abbiamo una casa di famiglia, alcune canzoni che erano solo chitarra e voce. Quindi io andavo lì dentro, facevo le mie canzoncine, ma andavo fuori, ho fatto, erano canzoni che erano scritte così, e quindi ho detto: ce ne liberiamo. In realtà poi, quando ho fatto la ricerca anche del bosco giusto, perché il bosco a valle è molto rumoroso, molto cicaloso, molto rimbombante, il bosco sulla cucuzza della collina no, però si sentono le moto, si sentono, quindi anche lì bisognava aggiustarsela bene. Quando ne ho parlato ai ragazzi mi hanno detto: ma registriamo un disco lì davvero. E quindi abbiamo scelto 5 canzoni e abbiamo praticamente fatto questa ripresa di chitarre, voci e cori e fischietti vari bosco. Sì. Che si mescolano anche con tutti gli uccellini. Poi tra una canzone e l'altra ci siamo noi che chiacchieriamo, quindi è proprio... Sì, infatti è molto... Una live session quasi. Esatto. Vabbè, la cosa che fa molto ridere è come abbiamo allestito lo studio di registrazione nel bosco, perché abbiamo raccattato... C'era vento. Lenzuola. Le coperte della nonna. Le coperte della nonna, le abbiamo legate tra gli alberi. Le coperte pesantissime della nonna. Legate tra alberi per evitare che entrasse il vento nei microfoni. Sì, sì, sì. C'era molto freddo. Li avete selezionati uno a uno o sono uccelli a caso? Cioè, gli avete fatto il provino? La cosa bella di suonare in un bosco con gli uccelli, sì, tu sei, è che gli interventi li scelgono loro. Di solito, quando non sentono altre voci cantare, ci sono gli uccellini. Quindi anche sta roba, che nelle registrazioni, quando smettevamo di cantare io e Agnese, partivano loro, faceva molto ridere. Solo. Che avessimo provato. Erano dei soli. No, ma infatti si inserisce tutto molto perfettamente, devo dire, sia i vostri interventi a inizio fine che la natura intorno. Sembra tutto molto studiato, anche se suppongo invece totalmente casuale. No, io voglio che tu continui a pensare che sia molto studiato. Che abbiate istruito gli uccellini. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. No, vabbè, comunque c'era un registratore Zoom attaccato ad un tronco, due condensatori sulle voci e questo. Poi c'era una scheda audio, ecco, questo avevamo. Un portatile. Poi c'è, diciamo, anche un 20%, diciamo, di ritocchi casalinghi, anche il basso di Sebi abbiamo aggiunto dopo, degli giustamente strumenti dopo, sì, esatto. Era impossibile, un piano registrato bene l'abbiamo dovuto aggiungere dopo bene, sì. Ah, ok, certo. Ma e come funziona la vostra, cioè, chimica creativa? Cioè, nello scegliere anche, non so, cosa suonare, che cosa mettere nell'EP, come costruire il momento. Come funziona? Vi tirate le sedie? Ma allora, diciamo che sono capitati degli momenti. Siamo tesi. Sicuramente, com'è il detto, l'amore non è bello se non è una litigarella. Esatto. Quindi cosa sicuramente per dire io. Lungi da me. No. E quindi ci sono state sicuramente situazioni in cui ma perché abbiamo molto pathos per il progetto, quindi è normale che si creano alcune situazioni. Però spesso no, ci sta, anche perché non è che siamo i Rolling Stone, che ognuno fa la propria vita e non si beccano mai, si vedono solo alle prove ai concerti, cioè ci becchiamo anche abbastanza spesso, quindi ci sta a litigare, confrontarsi. Che bambino, non se lo maniamo insieme. No, comunque c'è da dire che come avviene il tutto: Lore scrive dei brani che ci fa sentire e poi abbiamo sempre avuto questa grandissima libertà di espressione ritmica, armonica, alcune volte è capitato, anche se lui comunque dà uno scheletro importantissimo ai brani, spesso non vengono stravolti totalmente, anzi qualcosina, però c'è molta libertà d'espressione, questa è una cosa molto molto bella. E poi come diciamo che la direzione artistica è di Lore, come esce un EP, quali brani, è giusto che sia così perché lui è l'autore dei sono brani, il capo. C'è una gerarchia, decido io, i soldi li tengo io. So il codice. Ma e per questo EP avevate, cioè l'outcome che volevate avere qual era? Cioè almeno l'idea iniziale, cioè perché avete scelto di farlo in un bosco? Perché sono le mie fissazioni. Perversioni di Lorenzo. Sì. Masochismi di Lorenzo. Sì, tra l'altro è stata una cosa difficilissima, cioè, no, immaginatela. Già solo dalla vostra descrizione come avete allestito la natura. Però devo dire, esatto, però devo dire che è stato soddisfacente, nel senso che si sente molto bene. Poi Vice Luna, un ragazzo che ci ha fatto il mix, ha fatto un gran lavoro e cavolo, ringraziamo pure Vice. Non ci ha fatto impazzire a noi, è impazzito lui. E quindi sì, vabbè, comunque io voglio bene. Si sentono gli uccellini comunque alla fine. Vorrei creare un'immagine in chi ci ascolta e un giorno di quei giorni famosi delle registrazioni, eravamo molto affamati. Io questa cosa non me la scorderò mai. Torniamo a casa dove stavamo alloggiando, che è casa di Lore, in Val d'Enza. In Val d'Enza, bravo, ricordalo. Esatto. Eravamo così affamati e a un certo punto arriva, è un'immagine bellissima, perché poi caldo primaverile, sole, avevamo suonato, registrato, comunque bellissimo. Arriva Lore con sto vassoio e sopra c'era sto burro spalmabile, ste alicette, sto pane tagliato. Ho detto no, vabbè, ma che sta di, cioè, ma poi quanto era buono per me, la cosa più buona, cioè, quello in testa, non me lo ricordavo neanche, stavo aspettando che lo raccontassi, non me lo sono dimenticato. E chi se lo dimentica? Bellissimo. Molto sofisticato, molto sofisticato, molto russo, molto, anche esatto, mancava la vodka forse. C'era la vodka? Non c'era la vodka. No. Ma e c'è stato, no, chiedo a tutti, parte Sebi che è più silenzioso, una canzone che come dire ti sei divertito di più a suonare o a creare, o viceversa, che è stata più complicata, non so se di questo EP o di altri. Ma a livello di divertimento nel nuovo disco, nel futuro disco, in realtà, cioè, personalmente è stata la cosa più divertente, semplicemente perché abbiamo fatto un lavoro comunitario sull'arrangiamento, sulla scrittura e la registrazione. E nel primo EP, invece nell'EP la musica si porta in giro. Il cuore. Il cuore. Il cuore, hai capito, i titoli sono... Ma sì, sei capito. Scusate. Era bello anche così. No, io sono entrato in fase postuma in realtà, quindi, ed è stato il mio battesimo con l'ORDT, quindi è stato vuoi venire, proviamo a registrare qualcosa, eccetera, quindi è stato un po' un side job di rinforzo, però è stato un bel ingresso. Poi registrato sei partito e io poi esatto registrato ho fatto il concerto la notte prima di prendere l'aereo per la Colombia con voi e è iniziato questo percorso, però mi ha subito appassionato fin dall'inizio, soprattutto perché c'erano dentro dei generi musicali, delle influenze che io era tanto tempo che non stavo suonando, tra cui il reggae, il folk, che mi hanno subito preso in più in questa dinamica da bar, da cuori che vanno in giro assieme, molto bello. Gabri? Se mi chiedi i nomi dei pezzi qua andiamo su. No, dai, la canzone che ti... Cioè, perché io ho una preferita. Sì, ho una preferita che Lore sa, ma che devi... mi sa che astrae da voi, perché era una delle inizialissime. Cioè, che... Il mito di Agatha. Poi arriveremo anche a questa domanda. Io il fatto di Agatha è che mi aspettavo fosse una canzone d'amore, tanto che c'è una bambina che si chiama Agatha che conosco. E speravo di dedicargliela, finché poi ascoltandola non ho capito che non era il caso di dedicargliela assolutamente. Però il punto era che io scrivendo pezzi ogni tanto mi capitava spesso di andare in fissa con i pezzi di Lore, quindi me li canticchiavo spesso alla chitarra, cosa che Agne odia tantissimo perché dice che li dissacro completamente. E quindi c'è un pezzo in particolare, Tempo per me, che mi piace moltissimo. Per noi. Tempo per noi, va benissimo, ci tanto sta, guarda. Non potevo farla giusta, se no non ero coerente, cioè. E quindi per me quello è il pezzo, tanto che tutti gli altri pezzi, quando dico allora io facciamo quel pezzo che fa, magari il pezzo si chiama Ciao come stai che fai, io faccio Ciao come stai che fai, che in realtà è cioè la melodia dell'altro pezzo. Questo è per dire che Tempo per noi è il pezzo mio. Sì. È il pezzo tuo. È il pezzo mio. Yuri? Il mio brano preferito? Sì, o anche il non preferito, non so, quello... Bello, questo non so cosa... Cioè, il più complesso, non so, allora, il pezzo di cui vuoi parlare. Allora, sicuramente non dal punto di vista delle parole, perché... Non si possono dissacrare le parole di Lore. Perché lì non darei mai una scelta, uno perché mi inchino alla sua davvero bravura... Autore, sì, ma no, veramente. Anzi, ti dirò di più. Cosa mi dici? Io per un anno che sono insomma, un anno vissuto insieme, è capitato che ho suonato i brani ritmicamente, ma non dando troppa attenzione ai testi. Ed è successo per un anno, anche di più. Fino a quando poi lui non ha scritto tutti i testi. Anzi, no, Leo, che oggi non c'è, ha trascritto tutti i testi su un quadernino. E abbiamo iniziato. Eravamo a casa insieme perché siamo coinquilini. E abbiamo iniziato a leggere i testi. E io li ho letti per la prima volta, seriamente. Cioè, provando a interpretare. Meglio tardi che mai. E ho fatto. Io questo qui a fianco non lo conosco. Cioè, robe assurde, ma poi veramente un dono. Comunque, no, solo per citare il mio brano preferito, però. Quindi lo cito dal punto di vista musicale, che è un po'... Boh, non lo so. È incredibile questa cosa, dire, che non mi ricordate i titoli. Dai, la butto lì, quello che non vuoi. Ok. Che è nel nuovo... È nel nuovo. Nuovo perché album. Questa mi manca, non c'era nel drive. Non c'era. Perdo i pezzi. Non ci ho messo. Comunque anche Sebi non aveva detto il suo brano preferito. No, eh? Infatti. Beh, assolutamente Ciao. Ciao per che invece ciao. C'è già uscito nel nuovo EP. Che è già uscito, esatto. Nel vecchio EP che si chiama La gente va in giro nei boschi. Ciao. Bella, concordo. Lore? Il mio? Il mio difficile. Brano. Il tuo brano? È difficile, sì. Dai, è Agatha. Agatha. Allora, io voglio sfatare questo mito, perché il motivo... Io mi sono innamorata di voi dopo aver ascoltato Agatha, che credo che sia il pezzo che ancora tutti i vostri... le vostre followers parliamo al femminile, abbiamo detto, certo, conoscono e vi chiedono sempre. Ed effettivamente ha sfondato, cioè la tua fama è legata a Agatha, o no? Agatha, che vorrei specificare, fa parte del vero album. Cioè, Agatha album fa parte, sì, di Via Cesari 5. Esatto, Via Cesari 5. Vabbè, è la nostra. È la nostra cucurucucù, dai. Infatti, fatta con Pino, che stasera non c'è, vorrei sottolinearlo perché quando ci ascolterà voglio che si senta molto in colpa di non essere qui. Tra l'altro. Ma lo trascino qua a ottobre. E, no, sono curiosa di sapere della storia di Agatha. Della canzone, colpito, dici? Così tanti cuori, sì. La canzone, non lo so, è il racconto dei miei viaggi estivi di quell'anno lì, che erano molto... Che specifico essere 2018. Sì, anche 2017 forse. Che erano molto wild. Cioè, giusto con lo zaino, sui treni, senza biglietti. Però ho girato, mi sono divertito, è bello, comunque. E infatti la canzone fare. È stupenda. Sì, ho conosciuto un po' di persone lì. In realtà, Agatha. Dove hai girato? Ho girato in Corsica, ho girato in Toscana, ho girato nel nord della Francia, e poi sono tornato verso la Liguria, e sono ritornato in Toscana. E poi sono andato a casa, mi sa. Certo, cioè, punto. Sì, era quasi ora, comunque. Ero in giro da un po'. No, e sì, e quindi niente, sono appunto i racconti di quei viaggi di lì. Agatha non è una persona che io conosco, o non è, è uscita, ma se la dico però rovino tutta la poesia, no? No, dai. Posso dire, sì, racconto una storia inventata? No. Cosa devo fare? No, vabbè. No, sincerità. Guarda, anche se fosse una storia inventata, comunque. Ok, allora. Non specifico se sia una storia inventata o no. Quindi Agatha c'ha tante A, no? Potrebbe essere. Che io col cellulare ho scritto ha ha ha ha ha ha, ha e mi ha corretto Agatha. Spero che non sia stata storia numero due. Speriamo, dai. Potrebbe essere questa cosa, sì. E invece no, scusa, il tuo pezzo preferito o spreferito? Ti ho imposto il mio. Forse questo. Non lo so, in realtà. Mi verrebbe da dire che un brano si è commosso qualche live fa. Non succede spesso. Anzi, forse è la prima volta. Gli sentivo la voce un po' Tremolina. A noi le me. Esatto. Quindi forse Beh, quello sì, sono molto affezionato. Ma infatti non lo faccio mai live, perché so. Tranne stasera. No, l'ho fatto quella volta lì perché mi è stato chiesto da Pino, tra l'altro. Pino e Agni avevano fatto questa cosa. E no, in effetti è stato molto difficile da cantare, non penso che lo rifarò mai più. No. Tanto è chitarra e voce sul disco, chitarra e voce dal vivo, cioè ce lo si ascolta sul disco. No. Ogni tanto ci sta. Spogliare sempre, dai. No, bisogna cantare live anche delle cose che non mi mettano in difficoltà, anche emotiva. Dici? In un certo però senso. Però posso dirti, sì. Però, tiri la zappa sui piedi. No, in che senso? Cioè scrivi canzoni, poi le pubblichi e poi la gente si aspetta che ce le suoni. Vabbè, ma mica posso fare tutte le martellate. Vabbè. Cioè, scrivo vogliamo tante cose. Vederti piangere sul palco. Vogliamo la Barbara Pulso. Ti sei commosso? Sì, sei lo commosso. Vedo. Fai anche l'imitazione di Barbara Pulso. Incredibile. Ecco, Yuri, c'è un ospite speciale. Yuri ha colmato un po' il vuoto di Agne stasera. Ah, per le componenti cazzate? Per le componenti cazzate, esatto. Sì, forse sì. Va bene, allora, bando alle ciance, direi che è giunto il momento di sentirvi sul palco live. Cosa dite? Sì. Siamo carichi? Dai, sei una pronto? Piccola tappa in bagno. Sì. Gioiele, vuoi venire a dire qualcosa tu? Amore? Qualcosa? No. No, da basta, mi ho messa in imbarazzo. Dai, vieni a dire. E adesso comincia il concerto. Muore. No, scusa. No, No, amore, puoi non farlo. Va bene, allora nella pausa facciamo ascoltare Filo Spada. Ottima idea. Yeah. Va bene? Sì, assolutamente. Sì. Allora, grazie di essere venuti comunque. Direi grazie, grazie anche a Exalge, il meraviglioso team. Grazie Luke, grazie Fede. Grazie a loro. Grazie Chiello. Grazie ragazzi. Grazie Gio. Grazie Coli. E va bene, siamo pronti per partire. Yeah. Session di presentazione del gruppo, mi sembra giusto che li ascoltiamo e capiamo nel concreto di che pasta sono fatti, o no? Brava. Va bene, buon ascolto. Bravo, un bel applauso a Lau. Mai abbastanza. Sì, sì, inizia. Permettendo perché se c'è il sole io lo prendo tutto per me, ora che c'è tempo. Tempo per me, che ingrassa ogni giorno e dai son tempi bui, era meglio stare peggio e starsene da sé ad asciugare al sole. Per noi, che mai ne abbiamo chiesto di tempo per noi, che mai ne abbiamo chiesto di tempo per noi, che mai ne abbiamo chiesto ora, ora di star meglio senza alcun però. Tempo per lei, che si ama e si teme, come faccio coi miei problemi, era meglio tenermeli da sé ad asciugare al sole. Se sei qui con me, quanto è bello quando poi vai via. Mi lasci il tempo per farmi un caffè e fare pure un po' di pulizia. E poi riprendermi ci metto un po'. Sì, sono lento come la burocrazia. Ma quanto è bello se sei qui con me. E quanto è bello quando poi vai via. E quanto è bello se sei qui con me. Non faccio altro che ascoltarti e mischio il gin con le foglie di tè. Poi passo il dito a rimischiare, mi sento proprio come un cane ormai. Ah, sdraiato a terra ad annusarmi, ma quanto è bello se sei qui con me. Non fare altro che annoiarci, che che annoiarci. Quanto è bello quando vai, vai via, mi perdo dietro le mie cose. Ah sì che devo dirti delle volte, sai, sono pure un po' pericolose. Sento proprio un coglione ormai, strata a terra a ripigliarmi. Ma quanto è bello quando non ci sei, non fare altro che annoiarmi, che annoiarmi, che annoiarmi. Sai, mi perdo dietro le mie cose. Come ho detto già prima, sai, sono pure un po' pericolose. Mi sento proprio come un cane ormai, sdraiato a terra a ripigliarmi. Ma quanto è bello quando non ci sei, non fare altro che annoiarmi, che annoiarmi. E quanto è bello quando sei qui con me, con quegli occhietti un po' smarriti. Soltanto grandi sogni qui per te. Al centro di mi guarda City, mi guarda City. Se balla al tavolo vedrai che poi ci sbatto dentro altri due viti. Ma quanto è bello quando non ci sei, con quegli occhietti un po' smarriti, un po' smarriti, un po' smarriti. Maestro Yuri Kosmai al pianoforte, incredibile, sono venuti i brividi. Sia mai offrire la birra a Gabri. Porto vecchio col battello, fossi ricco e bello sarebbe vero. Porto Rico, Porto Bello rotto. Basta una pelle bella, basta la bella e la bestia. Come il cartone, però il cartone un altro sapore. E questa canna d'erba rollata, saleccia la fanno all'isola d'Elba, un prodotto col marchio DOP. E mio malgrado m'attacco al traghetto, attracco a Livorno. Ti cerco, ecco, nel letto, nei bordi di Bor. Problema della sera della Siena. Confessi che usi a Chianciano, dici a mio no. Agatha, Agatha. Porto buone nuove a bordo da porto. Ci sono droghe migliori da mettere in circolo. Quelle passate per buone, per tutte le tasche. Il caso di chi riscuote le tasse, decide cosa buono o no. L'operazione strade sicure, che le strade sono chiuse dal fiume. Guado Milano e sul Po. La scimmia mano e scacco luzzi e la scura. La sicura giura asciutte non l'aiuta sullo scivolo. Per pochi grammi in via Gramsci ci presero a calci. La festa dell'unità ci fila in città. Ah già, Agatha. Al poliziotto ci palestre, piscina, scrocca, me fattura, non che l'aria appena possono. Ma io passo, parto da porto, vado, vado, io ti passo a porta allegro, porto bello, loro che si fottano. Agatha, mi succano. Agatha, e contro loro rimbalzano. Rimbalzano. Grazie. Bravo Gabri. Questo è andato un po' fuori. Grazie a te. Io ti rivedrai sotto un'altra luce, tra le cose in pace, con lo stesso nome ti rivedrai. Le paure, i disimpegni non sono solo dei problemi, solo dei problemi, solo dei problemi miei. L'idea e mi piace sempre, sempre più. E mi piaci tu e mi piace l'idea e mi piace sempre, sempre più. Ma io ti rivedrai, non c'è sicurezza. E non si scherza con l'astinenza, ma io ti rivedrai. Una mattina io non freno, finisco sotto un treno, prima io ti rivedrai, prima io ti rivedrai. L'occasione per presentare di nuovo il gruppo, e tanto non suono il magnifico, meraviglioso, glorioso Gabriele Morato alla vostra destra, alla mia destra, stavo pensando a destra, a sinistra mia, loro, alla fine ho sbagliato, alla mia sinistra, a vostra destra, ma ormai ci siamo capiti, lo stallone Isernino, Piero Molisano Doc, Yuri Kusmai, che è un piacere sentirlo al piano, davvero. E dietro di me c'è l'anima latina, il suebo Martini. Un applauso a Sebastian al basso. Dove le ore scoccano dolcemente. Un applauso a Lore. Dove le ore scoccano dolcemente, e fiori sbucano dal niente. Per guardare da dove spunti il sole sorridente, sorridi sì prima di andar via, sembra proprio che sei un dormiglione che lascia la sera alle stelle sole ad annoiarsi con miliardi di persone e con la loro poca fantasia. I gatti hanno tolto gli stivali e il trucco e per loro piove sempre sull'asciutto. Oh, raga, hanno fatto buche dappertutto, l'acqua scompare quasi come per magia. Il veggente dice al prete quante cose vi perdete, tipo i poeti che aspettano l'inverno, distesa da rose e frutteti tra galassi di pianeti, casa dolce, casa mia, torno presto. Casa dolce, casa mia, torno, torno, torno. Dolce casa, torno, torno, torno. Il viaggiatore non si è mai perduto, parla tutto compiaciuto. Sei tu che non hai visto quel che io ho dovuto. Se anche il mare disse come no, come no, papà Geppetto fece un bello oggetto, provando a dargli pure un bello aspetto. Tanto che anche il burattino fu contento, son tanto contento, anche se ora so, ora so di essere una mosca piccolina che sbatte le ali, vola e si trascina. Scappa, scappa, scappa perché l'ora s'avvicina. E poi non si può certo dirti mai. Le mie ragioni le ho spiegate, che le vittime ora siano grate. A casa mia non c'è l'inferno, la vita accade, io non colgo, infatti la raccolgo e mi ci avvolgo per non avere freddo st'altro inverno. Casa dolce, casa mia, torno, torno, torno. Casa dolce, casa mia, torno, torno, torno. Casa dolce, casa mia, torno, torno, torno. Grazie. Adesso c'è la musica importante. Tutte e due. Quando il treno parte, ti porta via con sé. E sì, c'è qualche cosa che ritorna. Gli occhi vanno avanti, ma il corpo fa da sé. E sì, che c'è qualche cosa che ritorna. Piace la vita che conforta, tranne a me, che ti scorta e si racconta, tranne a me. Se parli a un muro non ti ascolta, glielo ripeto un'altra volta. Solo la vita che mi sporca fa per me. Che viene da te. E sì, che c'è qualche qualcosa che ritorna. Gli ulivi vanno assieme e tra noi ognuno va per sé, ma sì che c'è qualche cosa che ritorna. Piace la vita che conforta, tranne a me, che ti scorta e si racconta, tranne a me. Se parli a uno non ti ascolta, glielo ripeto un'altra volta, solo la vita che mi sporca fa per me. Facciamo una canzone triste adesso, quindi. Letto dove dormo, mi chiede quando torni. Anche se con me di notte sei morto, senza di te le ore son giorni. Cioè, io mi spacco la schiena in cantiere, tu già fai sta scena e non mi fai bere un caffè. Il primo della giornata, Cristo, come fai a dirti amo senza includere me? La stanza dove fumo, senza di me poi sfasa, mi manda a fare in culo. Appena mi torno a casa, ciao, io ti pago bollette e spaccino, dovresti star zitto e servire di fretta un caffè. Sarebbe il primo della tua vita, come fai a dirti amo senza includere me? C'è bastata, ma io faccio un po' come mi pare, faccio un po' come mi va. La penna appena torno, chiede di fare un giro, facciamo un giro, soddisfo il suo bisogno, perché sono recidivo. Ah no, ma io mascherina ti conosco e ti tolgo l'inchiostro che se ti do al labbro e ti prendi anche il re. Come fai a dirti amo senza includere me? Ma Questa spingeva, eh? Spingevi, eh? L'afro. Oh, scusa. Influenza. Facciamo la buca che fate? La ricordi? Non devo spiegare niente a Yuri, Yuri già la sa. Sì, Yuri in realtà è il nostro batterista. Oggi sono al piano, ma consentite con scarsissimi risultati, vero? Facciamo un bel applauso a Yuri, per favore. Che cazzo di gente. Passato, in posti in cui non sono stato e non sai che nostalgia. Il mare mi appartiene, anche se lui dice di no. Più gli mettono catene, tirano su barriere, più dice vincerò. Dove si va, si vincerà. Quale sarà la prossima città? Dove si va? Si vincerà. Quale sarà la prossima città? Dove si va? Olive pesto, mi dice torna presto ogni volta che son via. È il mio monte che mi chiama e dice Manny vieni su, che la mano che ti ama è la stessa che ti sfama e che poi ti spinge giù. Ah, dove si va, si vincerà. Quale sarà la prossima città? Dove si va? Si vincerà. Quale sarà la prossima città? Dove si va? Thank you. non me l'aspettavo. Penso di aver perso, penso di aver perso degli anni di vita, tra l'altro, in tutto questo. Facciamo non ci credo. Fa reggaeton, mi raccomando. Io non ci credo, non ci credo, non ci credo che sia tutto vero. Io non ci credo. E sei andata di già. Oh, scusate. Iori. Anche prima mi hai fatto morire, mi sono dimenticato quello che stavo facendo. Io non ci credo, non ci credo, non ci credo che sia tutto vero. Io non ci credo. E se n'è andata di già, io so qua che me la spiego, me la spiego, me la spiego. Ci penso giorno e notte, sì, preferirei le botte, sì. Andare in giro a motivare un occhio nero, un occhio nero, un occhio nero. Scrivo tanto ok, ma ne farei anche a meno. Legarmi emotivamente ai binari di un treno. Posso dire che non importa mentire un'altra volta, ma il fastidio sul lungo tratto che ti tira scemo, tira scemo, tira scemo. Io non ci credo, non ci credo, non ci credo che sia tutto vero. Io non ci credo. E se non la sta sfottendo, io sono qua che me la meno, me la meno. Ah, secondo te la signor Rossi, io faccio fare sti discorsi. Che preferisca star da sola, io lo vedo, io lo vedo, io lo vedo. Ora se vengo non mi specchio nemmeno, neanche con la testa fuori dal finestrino del treno. Posso dire sti cazzi adesso? Lo chiedo e faccio lo stesso. Ma è la fede sul lungo tratto che ti tira scemo, tira scemo, tira scemo. Io non ci credo. Ero qua tranquillo che guardavo il cielo, pensando sto qua mi fisserò se al culo me. Non faccio l'alpinista, non volo nemmeno. Non so se ti spiego. Non ci credo. Si sta tanto bene finché non mi vedo. Se mi sposta la virgola io non la vedo. Che sono tutto preso a controllarlo zero. Non ci credo. Non ci credo. Basta un microbiorganismo pieno. Chiude la finanza in una stanza per un anno intero. Ma non sarà abbastanza tempo. Non mi vedo. Sono per lei qualcosa in cui io non credo. E dico che ci penso quando invece nego. Sono tutto preso a dire non ci credo. Grazie, siamo quasi alla fine, sudati. Ci abbiamo, no infatti però insomma. Qualcosa ma non sai, qualcosa che non voglio, qualcosa che non hai. La cerco fuori e dentro da qualcosa che non sento, qualcosa che non c'ha. No raga, scusate, l'ho staccata lentissima, scusate. Colpa mia. Vuoi darmi qualcosa ma non sai, qualcosa che non voglio, qualcosa che non hai. La cerca fuori e dentro ma per poco si spaventa per qualcosa che non c'è. E io mi sbaglio sempre, ora non mi sbaglio più. Io ci casco sempre, ora non ci casco più. Ora non mi castro, ora non mi canto. Thank you. darsi che ci provi e non ci riesci mai. La cerco fuori dentro da qualcosa che non sento, qualcosa che non c'ho. E io mi sbaglio sempre, ora non mi sbaglio più. Io ci casco sempre, ora non ci casco più. Ora non mi incastro, ora non mi incanto, ora non mi incarto più. Io ora non mi incastro, ora non mi incarto, ora non mi incanto più. Meraviglioso gruppo: Gabriele Morabito, Sebastian Martini, Yuri Kuzmai. Facciamo l'ultima canzone, poi ce la andiamo fuori. Ci siete? Improvvisiamo. Ciao. Giusto. Bella ciao, era da chiamare, bravo. Perché non ci ho pensato? Quello che vuoi, Gabri, sentiti libero. Esatto. Ogni volta che dici ciao, qualcosa cade, si rompe. È solo che sia. Ogni volta che dici ciao, inciampo e sbatto la fronte. Ne vedo quattro, ma sono tre. So già che tu mi guardi così e io poi mi distraggo in un attimo. Thank you. io non ne vedo distinti, tanto so già che tu mi guardi così. Già che tu mi guardi così e io poi mi distraggo in un attimo. Grazie. Noi siamo la RDT. Leonardo Bonelli che ci ha raggiunto all'ultimo, all'ultimissimo. Ne avremmo finito. Facciamo l'ultima con Leo. Cioè, lo chiedo io. Oggi che giorno è? Sabato. Ciao. È vicina, non è lontana. C'è qualcuno che fa gli anni? Mai. Mai, oh, non c'è mai nessuno che fa gli anni. Noi abbiamo fatto. Ho scritto una canzone che si chiama Auguri Bomber. Non c'è mai nessuno che fa gli anni quando la suoniamo. Oh, ma sono anni ormai, cioè. O la gente si vergogna e dice. Oh. Te la sei preparata, quella degli anni. Cosa? Sono tanti quante anni. Quante volte l'hai provata? Sono tanti anni, Leo, che chiediamo. C'è qualcuno che fa gli anni. Ma l'hai provata tante volte? Tanti anni che provi. Okay, quanti anni? Pensavo solo a lei. Pensavo solo a lei. Pensavo solo a lei e non per farla lunga pensavo fossero solo pensieri miei, lei che pensa non sa, lei che pensa non sa, lei che pensa non sa, pensa niente, ci pensa continuamente, funziona, si sa, funziona. Pensava solo a me, pensava solo a me. Pensava solo a me e poi pensava gli uffa al lavoro, a Laura in ufficio, in tutto eravamo in tre. E lei che pensa non sa, lei che pensa non sa, lei che pensa non sa, pensa al mondo, a me dentro il mondo e poi dentro lei fino in fondo dirà auguri bombe, auguri bombe. Pensava solo a me, pensava solo a me, pensava solo a me, pensava solo a me, e non per farla lunga pensavo fossero pensieri solo da stelle, sai, e io che penso non so, io che penso non so, io che penso non so, io che penso non so. no? Io che penso non so, penso a niente, ci penso continuamente. Funziona, lo so, funziona. Pensavo solo online, pensavo solo a lei. Pensavo solo a lei, pensavo solo a lei. Pensavo solo a lei e poi pensavo agli uffa al lavoro, a Gabri in ufficio, tutto eravamo in sei. E lei che pensa non sa, lei che pensa non sa. E lei che pensa non sa, lei che pensa non sa. Lei che pensa non sa, pensa niente, ci pensa continuamente. Funziona, funziona. Auguri Bond, auguri Bond. Auguri bombe. Grazie, noi abbiamo finito, buona serata. Grazie a Laura, comunque alla sia. Grazie a... Prego, vieni a dire le ultime due parole, spettano a te. Le ultime due parole spettano a te, scusa. Ringrazio il tuo pubblico. Ringrazio il mio pubblico. Porca che ansia. E niente, allora, ma la serata non è finita. Inviterei il nostro prossimo concorrente, Ale, ciao, ben arrivato, che invece ci farà un DJ set. Vuoi venire a presentare un po' chi sei? Niente, no, scatola chiusa. Sorpresa! Sorpresa! Comunque, grazie mille, Lore, grazie Lore di T.